Allora vi dirò per cominciare quello dove vorrei arrivare stasera. La volta scorsa vi ho parlato un po' di tutto, che è sostanzialmente è qual è, come dobbiamo nutrirci per stare bene, okay? E io prendo quello che aveva scritto Michael Pollan in un libro meraviglioso che si chiama La difesa del cibo. Volevo portarlo, non l'ho portato, ma è molto bello. Michael Pollan ha scritto il dilemma dell'onnivoro, anche in cui parla dell'ambiente, del ruolo dell'ambiente sulla nostra alimentazione. Invece questo libro sul cibo è assolutamente interessantissimo, ve lo consiglio, c'è anche in italiano. Si chiama In difesa del cibo. Sì, In defense of food. E lui dice una cosa che è stata poi usata moltissime volte come per l'essenziale di come dobbiamo mangiare, che sono tre cose: cibo vero, non troppo, in prevalenza vegetale, ma non totalmente vegetale, che è in prevalenza. Questo è, secondo me, l'essenza di quello a cui vorrei arrivare stasera. Cosa vuol dire? Cibo vero, soprattutto, non troppo, e in prevalenza vegetale. Le ultime due sono abbastanza importanti, ma cibo vero è forse la cosa più difficile da fare e anche da attuare. Un tempo... Cibo vero. Io mi sono capitati, non li ho scelti. No. Allora, un tempo, anticamente, la risposta sarebbe stata immediata. Cosa dobbiamo mangiare? Dobbiamo mangiare quello che cacciamo, che raccogliamo, ed è sempre stato così, più o meno. Okay? Per cui, no, un po' come tutto il mondo animale, si mangiava, cioè si dice a una mucca cosa deve mangiare, va sul prato e mangia certa erba e non altra. La gallina che la lasci libera mangia, è un onnivoro, mangia certe cose ma non altre, lo sa di natura, DNA. Anche noi dovremmo essere così, però non è più così. Ora è difficile decidere cosa mangiare, difficile perché la faccenda si è complicata in maniera pazzesca, okay? Non è più immediato, dobbiamo mangiare cosa? Che cibo? Per decidere bisogna consultare dei libri, bisogna andare da nutrizionisti, bisogna occuparsene, e soprattutto le cose poi cambiano continuamente, okay? Perché non si parla più di cibo, ma, e questo è cominciato, diciamo che ha cominciato circa 200 anni fa a cambiare, okay? Non si parla più di cibo, si parla di nutrienti. Quindi si è passati da quello che è la natura a una idea molto artificiosa di quello che è, o tra virgolette scientifica. Okay? Non c'è più il cibo che dobbiamo mangiare, ma ci si nutre di cosa? La faccenda è iniziata nella prima metà dell'Ottocento addirittura, e con la decisione che dal punto di vista nutrizionale quello che è importante sono i macronutrienti, proteine, grassi e carboidrati. Okay? È partito così, si parla di queste cose, di nutrienti, e addirittura poi c'è stato un tizio che ci ha lavorato molto, che si chiamava Liebig, ricordate Bruno Liebig? Sì. E questo ha capito che mettendo insieme le cose essenziali si poteva nutrire senza andare a cercare il cibo, perché è partita da lì. Liebig è stato fondamentale per creare il brodo Liebig, su cui ha fatto anche un'industria e via discorrendo. Questo durante a metà del secolo XIX. Dagli anni, quando io mi sono laureato in medicina a metà degli anni 70, di nutrienti si parlava tantissimo. Ad esempio si parlava di bisogna mangiare meno grassi o più carboidrati, meno carboidrati. Questa battaglia tra carboidrati e grassi è diventata una cosa che è passata davanti agli occhi di tutti. Questo è stato importante, okay? non si è trovata una conclusione, perché l'importante è non trovare mai una conclusione, perché se si parla di scienza o di scienza diretta dall'industria, non si arriva mai a una conclusione, perché a una cosa si può sostituire un'altra. Il cibo non si può sostituire il cibo. Il cibo, se mangi le mele, sono le mele, non è che pensi ai nutrienti contenuti nelle mele, ok? Mentre invece con i nutrienti la faccenda è facilissima e l'interesse è stato grossissimo da parte dell'industria, perché ha cominciato in quel momento a creare un'industria non più del cibo, ma un'industria dei nutrienti, ok? Quindi si parla di proteine, carboidrati, vitamine, ma poi si è passati a omega 3, sentite parlare soltanto di queste cose, di colesterolo, di grassi saturi, grassi insaturi e via discorrendo. Questo è stato un grosso cambiamento che ha influenzato completamente la nostra relazione col cibo e continua a influenzarla, perché cambia sempre. Con la complicità della scienza, dei ricercatori, perché gli OVERI non finanziavano la ricerca sul cibo, perché è troppo, non porta denaro, però erano molto interessati chi era molto interessato a finanziare la ricerca sul cibo? L'industria, ovviamente, in assenza di governi, in assenza di una scienza libera che avesse finanziamenti da parte del governo, chi finanziava la ricerca sui cibi, sui nutrienti? La finanziavano le grosse industrie degli alimenti. Le 10 grosse società al mondo che commerciano in nutrienti, e soprattutto in zucchero e in fruttosio, sono queste qua, la Kellogg's, la Nestlé, la Ferrero e via discorrendo. Sono una decina di... che si dividono una montagna enorme di denaro, okay? Perché controllano tutto il cibo che mettiamo in bocca. Okay? Quindi non è una cosa da poco. Quindi tutto questo viene fatto a scopo di lucro, ovviamente di grosso lucro. Nessun interesse da parte della medicina. I medici non sanno nulla di alimentazione, semplicemente non per colpa loro, ma semplicemente perché non gli viene insegnato, anche perché di cibo, di nutrizione, di alimentazione non è considerato importante, perché la medicina è un business. Il business va attraverso i farmaci, gli ospedali, tutta quella roba lì, ok? Enorme quantità di denaro. Se togliessimo questa parte sarebbe una crisi mostruosa per il mondo, okay? Quindi la medicina non se ne occupa veramente, e se ne occupa per fare disastri. Pensate alla dieta in bianco che vi ha consigliato il vostro medico chissà quante volte, che è la cosa più stupida che si possa pensare, no? Chi ha bisogno della dieta in bianco? Nessuno, okay? Anzi è una cosa che fa male alla salute. Il passaggio è stato reale, senza ritorno. Si è passati dal cibo reale, tangibile, a nutrizionismo, quindi a scienza, con dentro elementi misteriosi per il pubblico, come potete essere voi. Cosa sono questi elementi che entrano a far parte della... si parla non di cibo, ma di calorie, okay? Di proteine, carboidrati, grassi, eccetera, eccetera, colesterolo, tutto può cambiare in un attimo. Se qualche cosa non funziona più, non si vende più, lo possiamo vendere con dentro una vitamina o uno zinco o un antiossidante, e questo continua ad avvenire in continuazione, per cui non c'è più la capacità di gestire quello che mettiamo in bocca. I disastri sono stati, alcuni sono noti. Pensate al fatto che negli anni 50 e 60 alle donne veniva suggerito di non allattare i propri neonati, perché non era sufficiente il latte materno. Ed è iniziata un'enorme esplosione di latte in polvere, latte per Il latte materno è il latte più ricco di tutti i mammiferi esistenti, certo, lo sapevo, al mondo, no, peraltro. Io lo sapevo, grazie. No, ma è stato, però la vendita del latte per i neonati è stato un grosso affare per la Nestlé e per altri che lo producevano. Allora, pensate all'idea di sostituire il burro, fa male perché è fatto con il latte, contiene molto troppo grasso, quindi veniva detto negli anni 60. Quindi sostituite il burro con un prodotto vegetale, quindi la margarina idrogenata, okay, che per anni è stata la sostituzione del burro con la margarina, che sappiamo che fa malissimo al nostro sistema cardiocircolatorio. Ci sono voluti però 30 anni per scoprire che andava male, quindi la gente ha continuato a consumare margarina invece di burro, ok? Io mangiavo il burro. Va benissimo, mangiate il burro, basta che non mangiate la margarina. L'hanno cambiata. Fanno gli stessi idrogenati senza la componente che fa male alla salute, ma però sono sempre prodotti di sintesi, non vanno bene, okay? Quindi lasciamo perdere. In busta paga, in tutta questa roba, scientifica, ci sono scienziati, più che medici, scienziati, ricercatori, che lavorano pagati dall'industria. La mia collega, ex chairman del Dipartimento di Nutrizione a NYU, a New York University, dove ho lavorato per tanti anni, per 2 anni ha fatto una compilazione degli articoli peer review che venivano pubblicati negli Stati Uniti e nel mondo, ok? E ha trovato che l'80% dei lavori peer review su nutrizione, su alimentazione, erano direttamente o indirettamente finanziati dall'industria del cibo, okay? Quindi tutto quello che esce scientifico, tra virgolette, tu puoi benissimo convincere uno scienziato a fare una ricerca, gli dai soldi, gli dai un obiettivo, dimmi che il latte fa bene, il latte fa male, qualsiasi cosa, ok? E alla fine, a parte che puoi decidere di non pubblicare, oppure puoi decidere che è venuto bene perché di interesse, perché crea confusione sostanzialmente. In realtà l'industria ha agito un po' come ha agito la Philip Morris sul tabacco, okay? Produce un sacco di robaccia che crea un sacco di confusione, quindi la gente non sa esattamente come fare, okay? Cosa mangio? Vado al supermercato e compro quello che trovo, e ormai è così, okay? Come? Con l'offerta che costa di meno, tra l'altro, ok? Tra l'altro potete, ad esempio, facciamo l'esempio dell'avocado. Un tempo l'avocado era no, perché contiene troppo grasso, è tutto grasso l'avocado. Adesso è venuto fuori, puoi cambiare le carte in tavola, no? Se controlli il flusso di informazione, adesso viene fuori che l'avocado contiene grassi saturi a media catena, quindi in realtà fanno bene, secondo di nuovo la seconda direttiva, quindi è cambiato completamente l'ipotesi, ok? E quindi giù con gli avocati, adesso li fanno in Spagna, li fanno in Sicilia, in Israele. Ma li danno all'asilo? Li danno all'asilo, cioè serve. È cibo base, no? Fanno bene, non c'è niente che fa bene. Okay. Questo è una cosa che dice l'industria, ci sono cose che fanno bene, no. Pensiamo soltanto alle cose che fanno male, perché in realtà non sappiamo cosa faccia bene. No, hai fatto bene a dirlo, Paola. Cioè, insomma, no. È un buon grasso vegetale, ma non è che faccia bene. Quello che fa bene lo vedremo alla fine di questa mia parola. Alla fine, insomma. Quindi il suggerimento che... vi ho detto quello dove voglio arrivare alla fine. Il suggerimento che vi do a questo punto è: non comprate mai alcunché che abbia a che fare col cibo che contenga frasi tipo sano, ricco di fibre, senza zuccheri aggiunti, fonte di calcio. Se dicono queste cose, non le comprate mai. Non lo so, vedi. Però non ci credete, questa è falsa scienza. Okay? Interrompete quando volete. Guardando le etichette, non fidarsi di quello che c'è scritto sul packaging. Quindi se c'è scritto fonte di fibre, zero grassi, a insospettirsi. No, secondo me non dovete comprarlo e basta. Proprio. Ma è tutto un'etichetta, Paolo. Lo so, infatti non è facile gestire. Io ve l'ho detto subito, non è facilissimo. Credo che sia anche per legge. Beh, le leggi, i governi sono complici di questa cosa qua, ok? Sono molto complici, per cui non fidatevi neanche del governo, perché ci sono le piramidi sul cibo. Sì. Dai la soluzione. Ma grazie che ce lo dici. Beh, dovete chiedere, però vi ho detto, non è facilissimo gestire il cibo, per cui lo vedremo quello che vi dicono è c'è il cibo, come fare a definire un buon livello di salute, okay? Questo è quello in cui si basa poi governi, industria. Come definiamo la salute? Generalmente la cosa più facile da dire: si vive molto più a lungo di un tempo, okay? L'aspettativa di vita alla nascita si è allungata di un decine di anni, ok? Ne è passata da 50 e qualcosa negli anni 20 a 85 per le donne adesso e 80 per i maschi, ok? Quindi grande successo. Come siamo arrivati a un tale successo, tra virgolette? Attraverso, abbiamo eliminato la mortalità infantile, la mortalità neonatale, abbiamo curato le acque, le fogne, tutte quelle robe lì, l'igiene, e poi adesso, ultimamente, se uno ha l'infarto, mica muore più. 30 anni fa si moriva, adesso arriva il cardiologo interventista, ti cambia tutti i tubi e sopravvivi. Non ti cura, okay? Ti guarisce dal sintomo. Okay? Quindi adesso la medicina è diventata cura del sintomo, ma i medici non fanno prevenzione. I medici, di fronte a malattie che sono totalmente prevenibili, come le malattie cardiovascolari, 60% delle morti, non una roba da poco, sono prevenibili, lo sappiamo come si potrebbe fare a prevenirle. Poi ci sono, di cosa muore la gente? Muore di tumori, in gran parte prevenibili, tumori del seno, del colon, sappiamo curarli con cosa? Con l'alimentazione. Il diabete, si muore di diabete, il diabete è totalmente prevenibile, sappiamo perfettamente come prevenire il diabete, quindi parliamo dell'80% delle morti, 90% forse, dipende. Poi ci sono altre piccole cose che si possono prevenire. Quindi il problema che quindi non sarebbe quanto possiamo vivere, quindi l'attesa di vita alla nascita, ma quanto di questa vita possiamo godercela senza malattie croniche degenerative, okay? Senza infarto. I dati Istat che chiunque può trovare ci dicono che a 67 anni la metà della popolazione ha avuto o avrà o ha già una malattia cronica degenerativa. 67 anni. Poi si continua a vivere fino a 85 la donna, 80 un maschio, di media. Okay? Quindi è una bella fregatura, cioè se vivi con l'Alzheimer per 15 anni non è tanto bello. E quindi ci sono anche queste con l'Alzheimer, è un'altra malattia in teoria che potrebbe essere prevenibile, però strettamente legata a quello che mangiamo. La medicina ha grossa difficoltà a gestire la malattia, lo vedete ogni giorno adesso sui giornali, in televisione, non ci sono più medici, ci sono pochi medici e sono poco pagati, fanno un lavoro pazzesco di gestione della... Clara, tu lo sei, un lavoro di merda, ok? Veramente un momento difficile, perché poi è frustrante. Curare soltanto sintomi di malattie che non avrebbero potuto esserci sarebbe abbastanza frustrante. I medici poveracci sono costretti a curare sintomi perché non possono fare altro ormai e sono con l'acqua alla gola. C'è quello con l'infarto, bisogna evitare che muoia. C'è quello col diabete, bisogna dargli la metformina, bisogna aiutarlo a non sviluppare una malattia che lo porta all'amputazione del piede o a un problema renale grosso, per cui è in dialisi per 5 anni, ok? Quindi queste sono le cose. Quindi devono occuparsi di questa faccenda e non possono occuparsi di altro. E nessuno gli ha insegnato niente riguardo all'alimentazione, cosa vuoi che facciano, ok? Quindi tutto questo è molto utile all'industria della malattia, ok? Ci capiamo. L'industria della malattia, per funzionare bene, ha bisogno di malati, non di sani. E quindi si vendono farmaci, si vendono... Ok? Ma serve anche all'industria del cibo, perché ovviamente, se uno mangia male, si ammala di più. Quindi è importante che ci siano malati, che la gente non sappia assolutamente che fare rispetto al cibo, e per cui, guardate, la statistica, un'altra statistica, poi mi fermo con le statistiche, riguardo a quanto l'attesa di vita in salute, cioè senza malattie croniche degenerative, se guardate la statistica vista per l'Italia, c'è una differenza enorme di 12 anni tra la provincia a salute migliore, che è quella di Bolzano, e quella di Catanzaro. 12 anni, okay? Non è da poco. E perché? Perché li potremmo sbizzarrirci, non possiamo farlo stasera, ma perché a Catanzaro non mangiano male perché sono più poveri e molto meno educati che a Bolzano. E quindi poi ci sono anche, vuoi dire? Paradossalmente in Calabria ci sono la parte più longevi d'Italia, sì, in un piccolo paesino. E lì è proprio legato al discorso dell'alimentazione. C'è un nucleo di persone che viveva molto di più, con una longevità molto alta, una via di 90 anni. Certo. E era legato proprio al discorso dell'alimentazione. Ha fatto Walter Longo, che non so se hai letto sui libri. Sì. Sardegna, in Calabria, dei nuclei proprio di villaggi, con persone centenarie. E questo avviene anche in Sardegna, che è un altro problema. Quindi questa era la digressione che ho fatto sulle statistiche, ok? Poi mi fermo. Il problema è che gli esseri umani non si nutrono di nutrienti, si nutrono di cibo. Non potete pensare a un nutriente isolato, al colesterolo da solo, senza pensare al contesto, a quello che gli sta intorno. Quindi cibo è una cosa, nutrienti è un'altra. La ricerca infatti va avanti studiando nutriente per nutriente, quindi vengono scissi. Questo è il riduzionismo pazzesco che c'è non solo in medicina, che ormai si occupa soltanto di super specialità, di organi separati, ma anche nella ricerca medica sul cibo, per cui si parla sempre di nutrienti. Nutrienti è il grande business, okay? Perché crei confusione e continui a creare confusione. Ad esempio, se mangiate una mela, che è una mela o dell'uva o una zucchina, che sono ricchi di antiossidanti, è molto diverso che mangiare una capsula di antiossidanti, okay? Non c'è una differenza colossale, okay? Mangiare una mela, gli antiossidanti della mela, oppure il fatto che le verdure non vogliono essere mangiate e quando tu le mangi stimolano la produzione di antiossidanti all'interno del corpo. Okay? Quindi, perché? Perché è noto che una foglia di insalata non vuole essere mangiata da chi vuole mangiare la foglia di insalata. Se noi la mangiamo ha una piccola, leggerissima, minuscola frazione tossica che ci permette al nostro organismo di sviluppare una reazione positiva, uno stress positivo. Okay? Chiudo un'altra parentesi perché poi potrei parlare per altri troppo. Quindi servono gli antiossidanti vari, diversi, cioè sono decine di antiossidanti che troviamo nel cibo, insieme al resto della mela, insieme a tutto quello che fa una mela, una zucchina o dell'uva. Ok? E ci sono tanti altri esempi, ad esempio quello che io faccio spesso perché è una cosa di vasto uso. È molto diverso mangiare frutta o mangiare un centrifugato di frutta, uno succo di frutta. Sono due cose completamente diverse. Una è cibo e l'altra è una roba che fa male alla salute. Okay? Quindi non mangiate centrifugati. Sì, sì, non Il pane in cassetta del panino o il pane dell'hamburger, che madonna fa anche schifo, non è pane, è finto pane, è una cosa che non ha niente a che fare con il pane. È plastica, sì, o comunque qualcosa che non ha niente a che fare. Il cibo in generale, possiamo dire, di nuovo estremizzo, ma il cibo lavorato industrialmente non è cibo, ok? È stato trattato in maniera tale che crea dei grossi problemi al nostro organismo. Quindi qualsiasi cibo di produzione industriale va trattato molto con le molle. Okay? In realtà io direi non mangiatelo se è possibile. Okay? C'è cibo industriale, i cibi trasformati, quindi a caldo, i biscotti, le fette biscottate, per dirne alcune, non vanno mangiati, contengono un sacco di cose pessime per la salute. Però i fagioli in scatola, va bene, potete anche mangiarli, i cibi surgelati generalmente vanno abbastanza bene, pur essendo cibi industriali, ma non sono stati trasformati nella loro natura. Come? Processati. Processati, esatto. Quindi quelli che in inglese si chiamano highly processed food. Quindi se mangiate un biscotto che è stato cotto a 300 gradi, perché devono farne milioni in una volta sola, ha un sacco di problemi sul vostro organismo, di cui non vi accorgete, perché ve ne accorgerete dopo 40 anni. Okay? Questo è anche il problema. Okay? Tutti i biscotti che mangiate. Mi spiace quando devo dire le cose. La realtà è che la stragrande maggioranza delle persone... Volevo dire che il cibo sano forse garantisce la longevità, ma non la qualità di vita, e non lo so. Anche perché la socializzazione è importante, io non lo nego, però se uscite a mangiare la pizza ogni tanto va anche bene, se uscite a mangiare la pizza tutti i giorni non va bene, perché è un'esagerazione. No, ma io dico mangiare giusto, mangiare sano, e si vive. Ma cos'è mangiare sano? Quello che lei dice. Allora stai dicendo quello che lei dice. Mangiare sano è difficile. Sì. Adesso ci arriviamo. Ma certo. È vero. Allora, la stragrande maggioranza, dicevo, della gente mangia non cibo. Io quello che io chiamo non cibo. Cibo che non è vero. Quelle robe lì che ho elencato alcuni esempi. Il cibo vero come si riconosce? Beh, innanzitutto pensate ai vostri bisnonni o trisnonni. Se vi portaste adesso al supermercato, certe cose non le riconoscono, non sanno cosa sono. Che potrebbe essere un criterio già interessante. È qualcosa che lavoriamo noi in cucina. In realtà bisogna dire un'altra cosa, che purtroppo è in contrasto con la vita che molte persone conducono, no? Però bisognerebbe trasformare il cibo da noi, in cucina, in casa, okay? O andare a mangiare al ristorante, ma è un ristorante che trasforma il cibo con delicatezza, non servendovi cibo della mensa, ok? Va bene? Più o meno. E perché abbiamo bisogno del cibo vero? Perché noi siamo... E cosa vuol dire cibo vero? Cibo vero è un po' può essere quello che vi ho detto, ma deve essere capace di nutrire il nostro organismo. Il nostro organismo ha una complessità biologica immensa. Okay? Quindi noi siamo fatti di circa 10 milioni di miliardi di cellule che devono funzionare in base a certe leggi della biologia, di cui ci si dimentica perché la gente non lo sa. Quando gli si parla di calorie e di nutrienti, va bene, sarà giusto, sarà corretto. In realtà quello che conta è nutrire la complessità biologica. In ogni istante della nostra esistenza, avvengono miliardi di reazioni biochimiche. Okay? Quindi alla fine della giornata stiamo parlando di milioni di miliardi di attività biologiche che richiedono l'energia per farlo, richiedono sostanze, un gran numero di sostanze. Okay? Le nostre cellule, questi 10 milioni di miliardi di cellule, hanno bisogno di energia, devono funzionare, secondo regole biologiche che conosciamo piuttosto bene, e consumano energia. Noi dobbiamo fornirgli gli elementi per poter funzionare. Okay? Quindi dobbiamo necessariamente avere una grande varietà di cibo. Non possiamo fermarci a quello che la gente comunemente fa. Mangiano sempre le stesse quattro cose. Questo non si può fare perché? Perché il risultato è quello che abbiamo visto prima. Le statistiche lo dicono chiaramente. Si passano 20 anni o più malati. La metà della popolazione a 67 anni che sta abbassandosi è malata. Malate di patologie croniche, di cui non si muore subito. Ci vogliono anni a morire di quelle cose lì. Purtroppo è così. Allora, se manca il cibo vero, succedono delle cose che sono molto note, che però la medicina o non le affronta, o le affronta in maniera riduttivistica, quindi in maniera isolata. Io ve le elenco, non ne possiamo parlare perché sono... Però pensate allo stress ossidativo di cui avrete sentito parlare, no? Una realtà molto importante. La glicazione, il fatto che quando avete nel corpo che circolano troppi zuccheri, soprattutto uno che si chiama fruttosio, che è di cui ho parlato la volta scorsa, che è lo zucchero più pericoloso, questi inattivano le proteine, agiscono a livello cerebrale e vi scorrendo, non vi do di più. E il danno ai mitocondri. I mitocondri sono la nostra fonte di energia all'interno di ognuna delle nostre cellule e che se non vengono trattati bene perdono capacità di funzionare e quindi non funzioniamo bene senza mitocondri che funzionano. Il fatto che il cibo non vero provoca questa resistenza all'insulina, una grossa cosa molto complessa di cui si parla, in medicina si aspetta in realtà che uno diventi diabetico prima di curarlo, ma non si arriva prima che diventi diabetico a curare, a trattare la resistenza insulinica che necessiterebbe di un intervento di tipo alimentare, nutrizionale, ma probabilmente da un medico, okay? Un medico che sa il fatto suo. Non ci vuole molto, bisogna sapere come nutrire una persona che ha il rischio di diventare diabetico. Un altro degli otto, questi sono gli otto aspetti di danno metabolico che affliggono l'80% della popolazione, quindi non è una roba da poco, che bisogna vedere in maniera complessiva invece di suddividerla in malattie incurabili ormai, se non si presta attenzione al danno metabolico. C'è poi il problema dell'infiammazione. L'infiammazione anche quella viene trattata con degli antinfiammatori. Noi dobbiamo capire come fare per arrivare a ridurre il danno infiammatorio. Il danno infiammatorio si cura con l'alimentazione, di nuovo. La più potente medicina è l'alimentazione. Poi c'è l'epigenetica. Noi sappiamo che la genetica viene sbandierata come l'importante sviluppo, è vero, è un importantissimo sviluppo, però come il nostro corpo funziona è in base alle leggi dell'epigenetica. Quindi c'è una struttura genetica, che è quella che noi abbiamo, che definisce la capacità di produrre o meno proteine, e l'attuazione del programma, e quindi come il nostro organismo reagisce e produce o meno le proteine o le inattiva. Okay? Quindi questa è la nostra capacità di adattamento all'ambiente, fantastica cosa che ci ha permesso di muoverci dall'Africa e andare fino in Australia, okay? Nel corso di migliaia di generazioni. L'ultima cosa da tenere conto è che si chiama autofagia. Noi abbiamo bisogno di riparare i danni di queste miliardi e miliardi di operazioni chimiche che avvengono in ogni istante della nostra vita, che non sempre funzionano esattamente come da programma. Molto spesso succedono degli inghippi, degli errori, e che si accumulano dentro delle strutture cellulari che sono deputate a tenere la spazzatura, ok? La spazzatura si forma in continuazione. È la ragione per cui dobbiamo dormire, la ragione principale. Bisogna dormire perché durante il sonno il corpo, l'organismo ha la capacità di portare a riparo i danni, quindi questa autofagia, ok? Quindi scaricare i cassoni della spazzatura e continuare a vivere la cellula. Questo è importantissimo e quando viene considerato in medicina, praticamente mai. L'ultima cosa, e poi smetto, vi lascio riflettere, dobbiamo mangiare variato perché abbiamo bisogno di nutrire la parte simbiotica di noi, quindi i microrganismi che vivono in noi. Se noi abbiamo 10 milioni di miliardi di cellule, dobbiamo avere a che fare con microrganismi che contano sul numero di 50 volte superiore, 10 volte superiore, non lo sappiamo esattamente, ma molti di più delle cellule del nostro corpo. Noi siamo simbionti, viviamo insieme a un'enorme quantità di microrganismi, batteri, virus, funghi, eccetera, eccetera, che vivono dentro di noi in tutte le parti del nostro corpo, in tutte le superfici, in tutte le cavità, che devono essere trattati bene. E come facciamo a trattarli bene? Mangiando variato, perché loro hanno bisogno. Se mangiate soltanto certe cose, nutrite una parte bene, una parte di questi, e le altre cose che non mangiate non nutrono quelli che avrebbero potuto essere nutriti da quello che non mangiate. Quindi è un altro discorso di come nutrite le vostre cellule, dovete nutrire anche i vostri batteri, senza i quali non saremmo vivi, ok? Quindi è assolutamente fondamentale per la nostra vita di avere un patrimonio batterico nel corpo che è integro. Quindi come fare? Il business si è impegnato adesso nel dire vi diamo i probiotici qua, i probiotici là, ma il probiotico non funziona se non sappiamo esattamente come fare. Noi conosciamo una piccola parte di questa enorme complessità di roba, ma sappiamo una cosa per certa, che un'alimentazione variata produce un patrimonio batterico, che chiamiamo il microbioma, equilibrato. Okay? Quindi, di nuovo, questo è il succo della cosa. Per finire, ultimissima cosa, per vivere bene bisogna non solo mangiare variato, che è la cosa più difficile da fare, okay? Continuo a ripeterlo che è difficile, scegliere cibi veri e ogni tanto fare delle pause. Non si può mangiare in continuazione. Un altro dei danni del nostro mondo è quello di mangiare sempre, si mangia senza sosta. Adesso qua abbiamo Valentina che con me organizza dei meravigliosi gruppi di semi digiuno sempre seduta da te, con te, il semi digiuno è importante, ma ogni tanto fare delle soste. Ad esempio, la sosta più importante che non tutti fanno è quella che ogni giorno bisognerebbe fare una sosta. Quindi non si può mangiare in continuazione, non si può fare lo spuntino di mezzanotte. Bisogna lasciare come minimo 12 ore di tempo al nostro cervello per mettere a posto, per fare quello che vi dicevo prima, per correggere i danni che sono avvenuti durante il giorno. Se continuate a mangiare, questo non lo si può fare ottimamente. Quindi il minimo minimo è lasciare 12 ore, quindi quando dormite, più qualche ora prima e qualche ora dopo, senza mangiare nulla, tranne bere. Se poi riuscite a spostare queste 12 ore a 14 o anche un po' di più, okay? Paola e io lo facciamo tutti i giorni, okay? Facciamo siamo a circa 16 ore di digiuno, non ci vuole assolutamente niente, niente. Okay? Quindi si può fare benissimo. Noi lo facciamo saltando. Se salti la colazione, se salti il pranzo. Noi saltiamo la prima colazione perché secondo me è il pasto più inutile che ci sia. Per cui la prima colazione sì, è un'invenzione recente. Che invece è il pasto più importante della giornata. Lo dicono così per vendere i prodotti. Beh, dipende da cosa fai dopo la colazione. Sì, dipende da cosa fai dopo la colazione. No, certo. Io sto parlando della maggioranza della popolazione. È un pasto inutile e non è mai esistito. Pensate a quando c'è nata la prima colazione, da poco, nel secolo scorso. Prima chi la faceva? I super ricchi. Gli altri dovevano andare a lavorare prima di mangiare. I cacciatori dovevano andare a caccia prima di mangiare. Quindi la norma probabilmente è sempre stata quella di... Ma neanche bere un tè. Sì, bere sì, mangiare. Non voglio colpevolizzare. Si tratta però di... Vi do dei dati che sono inequivocabili. Bisogna assolutamente riparare i danni. Lo capite questo? No? Se non si dà tempo di riparare i danni, se il cervello deve occuparsi della digestione, non può avere tempo per occuparsi dei danni. E quindi se finite di mangiare alla sera alle 9, poi il cervello continua a lavorare per almeno altre 2 ore. Quindi quelle che sono le 12 ore non sono più 12, sono 10. Okay? Se ci togliete quelle 2 ore, qui il cervello non sta riposando. Okay? Quindi, per cui la cena molto presto. Sarebbe l'ideale. Alle 7:30. Sì, sarebbe l'ideale. Siamo in quasi tutti i paesi d'Europa. Sì, sì, sì. Che non stanno necessariamente meglio di noi. Io sto dando dei consigli generali, poi ci sono altre cose che intervengono, soprattutto il tipo di cibo vero. Cos'è il cibo vero? È quello che ho detto. Questo non ce l'hai spiegato. Appunto, parla di questo. Ok, cosa vi ho detto? Il cibo vero è quello che la vostra bisnonna non avrebbe potuto riconoscere. E vabbè, dove andiamo? È quello che non è processato, okay? Che non è lavorato dall'industria. Quello non è citato degli esempi. Il cibo vero non è quello che è stato lavorato in maniera eccessiva dall'industria. Biscotti, la maionese, le calvè, è pieno. Andate al supermercato. Quattro salti di padella. I fagottini. I biscotti, i Kellogg's. Cioè, bastoncini. È pieno di questa roba di cui la gente si riempie. Il risultato è che molti di questi, alcuni, sai, l'industria può dirvi, come ha fatto l'industria del tabacco, a dire, ma mio nonno ha fumato 60 sigarette al giorno fino a 60 anni e guarda come sta bene. Vabbè, quelle sono le eccezioni. Siamo tutti diversi, reagiamo tutti in maniera diversa alla stessa cosa, per fortuna. Comunque, io ho notato che, per esempio, nelle pubblicità in televisione sono aumentati tantissimo i prodotti per digerire, probiotici, tutti, che sono tutti legati integratori. Ma quello è un conto, però adesso ci vedi da queste pubblicità che sono aumentate moltissimo i malfunzionamenti intestinali, diciamo, perché ti propongono che 10 anni fa. La mia esperienza clinica è che il 60% delle persone ha problemi intestinali, di cui non ovviamente non sentite parlare, non è che vengono a dire sempre mi si gonfia la pancia, lo dicono a me, lo dicono alla Clara, no? Però più o meno il 60% delle persone ha problemi intestinali, stipsi, gonfiore, emorroidi, cioè è pieno di queste cose che vengono trattate come sintomi. Non vengono trattate con l'alimentazione, non vengono trattate in maniera corretta. Purtroppo sono aumentate le malattie autoimmuni, le malattie a carico gravi, autoimmuni a carico dell'intestino, morbo di Crohn, colite ulcerosa, sono in aumento tragico. Le tiroiditi di Hashimoto sono in aumento tragico. È veramente una situazione molto difficile. La causa è il cibo malsano, è il non cibo. Vedete voi qual è il non cibo? È pieno, l'abbiamo elencato. Cioè, il cibo vero è quello che è non cibo. È quello che non è non cibo. Come dirlo? Sì, sì. E ho una domanda, ovviamente non sulla tua metodologia, ma sul, è sociologica. Facciamo un gioco di fantasia. Questo discorso, come nella pubblicità della Isa, di Gandhi, la sente tutto il mondo. E per magia, di colpo, tutti vogliono mangiare cibo vero. È possibile? È un disastro, non credo sia possibile. È quello che vuole. Diciamo a voi, diciamo, mentre io parlo con voi, la Nestlé ha già raggiunto 10 milioni di persone. Per cui... Ma ci sarebbe, non ci sarebbe più neanche, vero? Siamo troppi? Che è la cosa su cui stanno lavorando i cercatori invece seri, non quelli delle aziende, ma i forager, per esempio, cioè sulle farine alternative, perché non c'è più cibo vero. Assolutamente, non c'è più cibo, sta scomparendo, perché un'altra cosa che sta avvenendo, c'è un solo tipo di banana in commercio, non c'è un solo tipo, c'è un solo tipo di frumento, un solo tipo di riso, un solo tipo di soia, un solo tipo di mais. Si sta riducendo la diversità biologica. Quindi la gente non solo mangia sempre le stesse quattro cose, giorno dopo giorno, magari non voi, però se guardate intorno, andate al supermercato la domenica pomeriggio quando la gente fa la spesa e vedete cosa comprano. Non comprano lo yogurt, bello bianco intero, comprano lo yogurt alla frutta, lo yogurt magro, chissà perché devono comprarlo magro, no? Il soia di soia, no? Tutte queste vaccate, scusatemi il termine, che fa parte del nostro ammalarci a 67 anni. Quindi... Però quello che diceva lei, tu in realtà se si educa a mangiare, se si riesce a mangiare meno, allora si può in parte risolvere il problema del cibo vero, perché se si mangia meno vuol dire che si produce più cibo vero. Si riesce a... No, per il momento è un privilegio di pochi. Di mangiare meno. Di mangiare meno e di mangiare bene. Di mangiare cibo vero è molto attuabile, ma per pochi. Io non saprei cosa farci. Cioè, se tutti mangiassero cibo vero, ci sarebbe una carenza d'altro lato. Non saprei. Però forse lei diceva che si riconvertire, cioè se uno può guidare questa trasformazione un pochino potrebbe invertirsi, però il problema è il costo anche secondo me, la gente spende, certo. Adesso spende niente, ma pensa alla mia, cioè la differenza tra natura e un essere lunga è pazzesco. Pensa alla medicina, facciamo la medicina di adesso è una medicina del XX secolo, è una medicina vecchia che si occupa soltanto di quello che porta soldi, quindi di riparare i danni una volta che sono avvenuti, è vecchiume, cioè come si fa? Dal punto di vista dei costi è un costo mastodontico. In Italia si spendono 120 miliardi, 125 miliardi all'anno per curare prevalenza malattie che non dovrebbero esistere. E io vorrei un'altra volta, se parla mi spende bene, io vorrei un'altra volta parlarvi di invecchiamento, perché è un altro tema, se ne comincia a parlare, ma cosa fare per invecchiare bene? Adesso la gente invecchia male, scusate, si invecchia male, si invecchia malati, si invecchia con l'Alzheimer, si invecchia con avendo avuto già un infarto, non è bello, non è brillante, ma cosa fare? Anche qui un privilegio per pochi di nuovo, lo sarà ancora per poco, però per vivere una vita lunga in salute non ci vuole molto. Sostanzialmente bisogna mangiare bene, però non è soltanto l'unica cosa, non ne possiamo parlare stasera, ma ne parleremo in un'altra occasione. Come? Dei batteri. Parlavi della sopravvivenza dei batteri, la vita lunga dei batteri. Va bene, avete altre domande? Abbiamo ancora tempo. Se avete domande... Scusa, quindi... Parte incentiva mangiando tanta verdura fresca che si trova ai supermercati, può essere un buon cibo secondo te? No? Inventarsi dei cibi nuovi, cioè provare e sperimentare cibi che non avete mai mangiato. Ce ne sono tanti. Insalate, le verdure se ne trovano. È mio altro problema. Dimmi. Adesso dico una cosa che dico. uno studio dell'Istituto dei tumori, che faccio un medico, avevo partecipato a un congresso bellissimo a Bologna, si intitolava Alimentazione, tumori e dintorni. Lehmann ci fece questa panna meravigliosa, la cucina vegetariana. Allora, uno degli studi grossi dell'Istituto dei tumori dimostrava come a 5 anni, studi armonizzati, la gente vegetariana, i vegetariani ammalavano del 30% in più di tumori. Vegetariani. Sì, ma è una cosa ben nota. Perché le verdure comunque vegetariane sono verdure che diserbanti, eccetera, eccetera. O vai sul biologico. E quindi uno studio sui bambini. Hanno trovato il glifosato e livelli elevatissimi di glifosato nei bambini. Uno studio grosso. È una sostanza che diserbante. L'unico denominatore comune erano i succhi di frutta. Ma quelli. Ma infatti, i succhi di frutta sono velenosi. Ma quelli buoni sì, sono velenosi. Tutti i succhi di frutta. Se avete un estrattore, buttatelo via. Un estrattore fa male alla salute. L'estrattore, i centrifugatori. Che poi le centrifughe te le bevi quando vuoi stare sano? Sì, dici sto a digiuno, mi bevo solo un centrifugato. No, questo è noto, grazie, perché veramente ci sono sempre più evidenza che. Avere una dieta monotona, e uno può essere un vegetariano e avere una dieta monotona, quindi la cosa più importante, più difficile da fare è avere un'alimentazione variata, lo dico, è difficilissimo, perché bisogna essere in cucina, bisogna andare a fare la spesa, bisogna avere conoscenze di quello che è la natura, ritornare ai nostri bisnonni, ok? Ed è difficilissimo, però io l'unica cosa che posso dire è avere un'alimentazione più variata possibile e possibilmente di prodotti che sono decenti. Bisogna andare a fare la spesa al supermercato, purtroppo è al mercato. Ci tocca, tu le compri le cose, le compri al mercato, al supermercato. Poi magari arrivano tutte dalla stessa voce, cioè, l'automercato alle 4 sono tutti all'automercato a comprare tutto. La casa, la guaranza della gente che lì al reale che sono spalare, di caso, anche che assolutamente ci sono i gas, ci sono i gas, i gas sono economici, poi ci sono i gas, si chiamano anche una volta anche una anche Cortiglia va abbastanza anche la varietà di Cortiglia che a me per esempio ha insegnato tantissimo è che non ti scegli le verdure, quindi ogni tanto dici ok, ciao, chi sei tu? Ti spotto. Sì, e per Porta Natura fa lo stesso, ti danno una frutta di anche Cortiglia sono Cortiglia controllata. Per cui si può, è gentile. Di nuovo è una questione di privilegio, non è possibile generalizzarlo. Se tutti andassero la Porta Natura da Cortiglia, non ci sarebbero Porta Natura e Cortiglia. Cioè farebbero schifo pure loro. Sì. È come quando la Menabrea è una birra buonissima ed ha vinto il premio come miglior birra del mondo e ce l'avevano in pochi, adesso ce l'hanno tutti ed è normale. Non ditelo a nessuno. Adesso è una birra qualsiasi, è stata comprata. Però io mi domando come può essere garantita sul fatto che siano per Cortiglia o gas o... Io vado in un mercatino vicino a casa mia che a giovedì ha delle cose buonissime di verdura a pasta. Come fa essere, cioè, mentre in qualche modo il supermercato che io non frequento dovrebbe essere in qualche modo garantito che sono un cibo un bel bisteccone. No, io non sto parlando di cibi, di alimentazione vegetariana, sto parlando di alimentazione variata. Come fai a essere garantito che questi gas siano la salvezza non andare sempre nello stesso posto, non fare la spesa. Io faccio così, variare è difficile. Io ho dei pazienti che vengono da me e dicono: ma io lavoro, arrivo a casa la sera alle 7, alle 8, e come faccio? Anche tu, cioè, sei sul set, come mangi? Mangi quello che ti dà il set, no? E magari vogliamo andare ancora in palestra per stressarsi ancora di più. Però non, io non ho soluzioni per queste cose, ok? Sì, non è facile. No, però, non è facile. Però variare, appunto, è anche andare in posti diversi a prendere le cose, cioè, e non prendere sempre. Sì, far un minimo di. Per esempio, tempo, banalmente, dicevo lei, il pane, no? Non è che io vado tutti, non me lo mangio mai il pane, se lo devo mangiare in ordine, quello che dici tu, lo vado a prendere una volta ed è un pane così, lo taglio a fette, magari sono. Non mangia perché è quello fondamentale per. Io ho dato delle. Andiamo a vedere cosa vanno a mangiare all'asilo le elementari. Cioè, l'ho detto fin dall'inizio che è difficile seguire questi criteri, ma pensateci, no? Cibo vero, è la cosa più difficile da fare, non sempre, non troppo, prevalentemente, ma non soltanto, prevalentemente vegetariano. Quindi io non dico di essere vegetariani, dico di essere variati. Quindi, il fatto che questo bisognerebbe dire a quello che adesso hanno 20 anni, perché sono loro. Hai ragione. Forse mia figlia, che va anche da lui, ma sono un po' più attenti, secondo me. Almeno mia figlia e i suoi amici sono sempre zero waste, guardano le fonti, vanno a prendersele dal contadino, fanno i forager che vanno a prendersele. Comunque è vero, cioè, quello che hai detto tu è verissimo, cioè le patologie croniche, se tu mangi male avrai l'infarto dopo 40 anni, 30 anni. Purtroppo quindi i nostri bambini, i nostri giovani mangiano malissimo. Se vai a vedere i carrelli della spesa della mamma è terribile, cioè mangiano zucchero, agliosa, vuol dire un sacco di fruttosio di cui ho parlato la volta scorsa. Il fruttosio è veramente uno dei veleni principali, ma nella frutta c'è poco, la frutta è quasi acqua, è tutta acqua, il fruttosio ce n'è pochino. Se concentri la frutta, o se prendi il fruttosio dal mais, come fanno, come si fa, dato che il fruttosio è più dolcificante del glucosio, se lo prendi dal mais, la maggior parte del fruttosio nei prodotti industriali viene dal mais, okay? E il sapore del tuo prodottino diventa fantastico e i bambini lo comprano, lo vogliono. E dopo 30 anni di quella roba lì comincerai a stare male. Quindi hai cominciato a 5 anni o 3 anni o 2 e poi avere l'infarto a 50. Tutte le sere sulla pubblicità è esattamente. E io nella mia pratica ne uso sempre meno devo spiegare che il problema della medicina, non so se Clara mi dà, il problema della medicina è che non viene spiegato mai niente, i medici non hanno tempo di spiegare, quindi il medico di base ti dà 10 minuti e poi fuori dalle palle, perché ci sono gli altri che aspettano fuori. Il medico di base ti dà 10 minuti dove? Io non lo vedo da, non lo so. Perché funziona così, prima. Poi non puoi stare lì a pensare che ti spieghi. Io essendo pensionato, faccio ancora il medico e mi compiaccio che io tengo le persone un'ora e mezza, 2 ore. Non li faccio pagare neanche troppo, però vale la pena. Io spiego un sacco. E spiegare è fondamentale, perché se uno capisce e si mette a mangiare variato, poi non torna più da me. Io faccio anche contro i miei interessi, perché veramente non tornano. Hanno imparato questa banale cosa, poi quelli che riescono a mettere in atto, non tornano più. È difficile, sì, è difficile, però vale la pena. Purtroppo. Difficile. poi si sta meglio. Bisogna organizzarsi un pochino. Mangi la carne una volta al collo, una volta al pescetto, l'altra all'insalata. Però non puoi mangiare sempre soltanto l'insalata verde, se è verde, rossa, gialla. Che il colore essere... contiene delle cose, capito? Sì, perché, metti, perché io metto la curcuma, per dirne una, in polvere o anche fresca? Perché è gialla. E il colore giallo, poi si può fare i ricostruti antiossidanti, queste balle qua. No, è gialla. Il giallo contiene cose diverse dal verde, dal rosso, dal blu. Ok. Quindi, e mettere dentro lì le spezie, i sapori, usate tanti sapori. E tu non hai parlato delle cose fermentate? Non ho parlato di cose fermentate, non posso parlare. Le cose fermentate sono fondamentali, però ve lo riservo per un'altra volta. Grazie. Grazie a voi. Sì. Ci